Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. In studio Gesuina Maccari ed Antonio Ceccato. Un affettuosissimo saluto a tutti gli ascoltatori da parte di Gesi e di Antonio. Oh Antonio, stasera abbiamo due ospiti in carne ed ossa. Oh. Poi, quando tu avrai letto le coordinate, dirò una cosina. Allora abbiamo il dottor Italo Facchinello, che è già stato nostro ospite qualche tempo fa, e poi abbiamo l'amico Emilio Gallina. Allora, tutti pronti col bicchiere in mano a brindare, perché oggi Emilio Gallina festeggia il suo compleanno. Oh, quindi, auguri, Emilio, Emilio, tanti auguri. Spia. Comunque, grazie, accettati di cuore. Sai, accettati proprio. È 100 di questi giorni. Esattamente. Vai tu allora, Antonio. Allora, un cordiale benvenuto alle amiche e agli amici di Blu Radio Veneto per questo percorso ideale nei sentieri della memoria. Ricordiamo il nostro indirizzo internet, che è bluradioveneto.it. Ed è anche possibile l'ascolto in streaming, naturalmente il relativo download della trasmissione. Senza dimenticare un saluto al nostro regista e al nostro coordinatore. Certo, a loro un saluto affettuosissimo. Bene, allora passiamo alla prima canzone in programma, che è, come penso che abbiate capito, è dedicata al nostro festeggiato. E vabbè, così ho pensato, nella mia testolina, di dedicargli una canzone che ha un titolo particolare, e penso che sia adatta anche perché, anche se è del 2006, che non è degli anni 60, 70, quelli che piacciono a me, a noi. Allora, per il nostro Emilio, L'uomo delle stelle. E non è un mondo se non mi fa amare quel che c'è. E non è vita se non posso viverla con te. Ti cercherò tra mari aperti nell'eternità. Precisa dentro ai sogni miei, che luce fai quando ti guardo e non lo sai. Il vento ti parlerà di quest'uomo che vive per te. Resterò vita per sempre con te. Sì, ti troverò. Stenderò tutte le stelle, ci riuscirò, perché sono l'uomo delle stelle. E bella sei, unica luce dentro agli occhi miei, mi guarderai come non mi hai guardato mai. Il tempo ci sfiorerà e saremo per sempre io e te. E io sarò Eccoci di nuovo in studio e nella foga di fare gli auguri al nostro Emilio mi sono dimenticata di dirvi che la canzone è cantata da Ron. Allora adesso presentiamo i nostri ospiti. Allora, dottor Facchinello, buonasera. Buonasera. Buonasera a voi. E bentornato. Grazie a voi. E buonasera anche al nostro Emilio. Ah, ci sono anch'io. Sì? Sì, buonasera, grazie Jesi. Ringrazio tutti Emilio tanto carissimo. Per gli auguri. E quindi mi hai fatto una sorpresa perché non sono belle pensavo, le sorprese. Anche perché mi hai detto qua tra parentesi, mi sono desmettegato di farti a te, che ti ha compì qualche giorno fa, se non ricordo male. Sì, ma io mi... Va bene, comunque tanto... Grazie. Allora, la trasmissione si svolgerà così. Adesso il nostro Antonio leggerà il curriculum del dottor Facchinello. Poi, allora, Emilio Gallina leggerà le poesie di Facchinello e il dottor Facchinello leggerà le poesie di Emilio Gallina. Intanto cominciamo così. Allora, Italo Facchinello è uno scrittore e poeta nato a Loria, in provincia di Treviso, dove risiede da tempo. Laureato in giurisprudenza, è stato per molti anni direttore di un ente pubblico trevigiano. Persona schiva e riservata, tutta da scoprire nei suoi scritti di prosa e di poesia. Raramente un uomo ha amato ed ama quello che fu il suo paese nella sua totalità, Loria. Le numerose opere dedicate al paese natio lo attestano senza alcuna ombra di dubbio. Ogni angolo del paese è stato da lui esplorato e ricordato, e così le famiglie con i loro soprannomi, le contrade e le vie da loro abitate, e naturalmente casa sua e il travaglio che l'ha accompagnata. Il tutto con uno stile di scrittura semplice, immediato. Momenti di un vissuto che lo ha segnato indelebilmente, legandolo ai luoghi dell'infanzia e dell'adolescenza. Un raccontare intercalato da forme dialettali molto efficaci che ben si inseriscono nella sua narrazione. Come non ricordare le sillogi Grazie dei figli del 76, Campi lontani dell'81, Al mio paese del 99, Alla fine del tempo del 2002, fino alla Stradiario del 2005, dove canta le vie di Loria e le relative famiglie. E le numerose opere in prosa, come Dietro il carro del 68, Le stagioni del vento dell'85, Storia e memoria dell'85, Il verso del cimblone, Favole del 91, Un paese che ritorna del 92, I paesi perduti del 95, Profili con l'ombre 2001, Viandanti 2004, Il primo amore 2007, La sfida delle fionde 2010, La contrada dei ladri 2011, Gli atti della stanza veneta 2012 e fresco di stampa Il comandante Masaccio 2013. Bene, e allora chi comincia? Allora comincio io a sto punto e chiedo scusa a Italo se per la scelta fatta, perché è un po' così, sarebbe tanto da approfondire, da leggere, perché mi piace moltissimo come lui scrive sia in prosa che in poesia. Voi avete sentito la produzione che ha messo in campo Italo, e di tutto rispetto, poi lui accenderà penso a Masaccio, che gli interessa sì, particolarmente, è l'ultimo uscito e sarà in campo nazionale, sarà una cosa penso straordinaria che interesserà moltissimo. E io comincerei dalla sillogia Grazie dei figli, che mi ha colpito per l'attenzione e la sofferenza posta inizialmente all'evento del concepimento, delle nascite. Fate una scelta così un po' particolare. E partiamo. Grazie dei figli che ho atteso una vita, eppur dell'attesa estrema, con loro, bambino, incontro un padre che guida per mano e una madre nell'anima allegra, e torno a perdermi nei campi senza l'antica solitudine. Bella. Eri un viso degli astri, di perle, di rivi, di riso dal cuore che salta, il passo incerto in avanti, i pilucchi di tutti gli infanti, i pilucchi dorati, di te solamente, Nannella, e già un secondo frullare in seno a tua madre inquietava le veglie. Eri appena rimesso da una maternità, sì. Penso. Sì, tu... Bello che queste qui sono poesie. E venne anche Tonio, appunto la seconda vita. E venne anche Tonio con Nullo e Zampillo, irrompendo mattino a Sugello, e subito stette assonnato in agguato, aprendosi solo alla poppa accanito. Sì, sono tutte senza titolo, sì, ma sono ma belle si immagini, così, sì. È vero. Siete già di casa quando vi sento parlare o disputare, grinta di leoncini, con solida eco di case piantate sui campi. Allora ritorno, seduto davanti al camino dei nonni, in mano una grande fetta di pane, mentre le zie, in età d'amoroso, baruffano di gioia. Sì, dovrei commentarle, ma... Sì, questa qui forse un pochino. Beh, questa è praticamente la... Adesso l'ho persa. Ah, beh, no. Non preoccuparti. Cioè, praticamente, qui il passo è stato avanti, i ragazzini sono cresciuti e sì. Quindi lui dice, siete già di casa siete quando già vi casa. Sento parlare. Sì, già a casa quando vi sento parlare. E cioè, i ragazzini che cominciano a baruffare. Sì. Rifanno il clima di famiglia che avevo visto dalle sorelle di mia mamma. Ah, quindi ecco. Ritorna quel clima di familiarità felice. Sì, sì, la vita si ricrea dentro casa mia. Insomma. Infatti, qui invece Anna, questa è la seconda. La prima figlia. La prima figlia. E questo se li vedi crescere, quindi dice: canto la tua corsa, Anna, leggero tintin sbilenco e soffiato di farfalla. Quando mi lasci la mano e rompi nei prati al vento i biondi pilucchi finché, lontana, rimane un turbinio di gioia. Canto il tuo sonno in mezzo alla notte, fermo, vicino a sentirti il respiro e guardarti. Credo guardare i bambini quando dormono è una cosa straordinaria, sì. Effettivamente. Piccolo fardello, questo... quando sono piccolini sono dei mucchietti. Piccolo fardello i miei bambini, tenero, piccoli fardelli nella stanza accanto, dolci, si può guardare e toccare appena, forme vaghe d'ogni avventura, i loro pianti turbano le notti, ma accanto ho sempre l'amore e le speranze di tutto il mio tempo che posso guardare e tenere in braccio. Che bellissima. Sì, questa qui è molto, molto profonda, sì. Effettivamente, sì, cercando di sondarla. E qui molto. Effettivamente in questa breve è praticamente il trattenere il ricordo di questa avventura bambina, diciamo così. Vorrei non perdere niente di voi. Sorrisi e sguardi e passi, le prime parole, e stampare nella memoria ogni pulsare di questa felicità come in un film da rivedere sempre. E poi un'ultima che è quando si pensa che i figli partano. Ah, ho capito. Quando lasciano il nido e vanno via per conto loro. E quindi la trepidazione del domani. E quando partiranno per la loro avventura, ti chiederò di tenerli per mano, come si fa ora per strada, e di raccontare ancora una fiaba. Poi dovrò sperare il paese che non conosce violenze né morte. Chiederò se il Padre Eterno che si sì, penso sì, ti chiederò che va maiuscolo. Bene. Allora adesso Emilio sì? Ci ha letto le poesie del dottor Facchinello e adesso però ci fermiamo un momentino per un brano musicale e poi andiamo con il nostro Emilio. Allora, il secondo brano musicale si intitola Vini Vini, è cantato da Betty Curtis, dato che il 15 giugno era l'anniversario della sua morte, avvenuta nel 2006. Ecco a voi. Vini, vini, vini, vini, vini, vana, vana, vana, vana. Eccoci di nuovo in studio e questa volta siamo con il nostro Emilio. Il dottor Facchinello poi leggerà le poesie di Emilio, ma intanto prima leggo il curriculum. È nato a Treviso nel 1934, il 23 giugno. Cioè oggi. Ecco. Dove risiede? Qui a Treviso. Fin dai tempi dell'importante esperienza di lavoro prima degli anni 50 presso la libreria di Piero Dall'Asta di Treviso, si è interessato al dialetto locale, che parla da sempre, agli usi, ai costumi e alle tradizioni della città e dell'intera Marca. Promotore editoriale e scolastico dal 1961 al 1998, ha cominciato il suo percorso poetico in lingua e in vernacolo verso la metà degli anni 70, entrando a far parte del circolo dei poeti dialettali trevigiani Amici della Poesia. È il sì, il vero? Sì. Fa parte del consiglio della Società Iconografica Trevigiana e collabora con altre associazioni culturali cittadine. Nel 1998 ha pubblicato Galaverna, la sua prima silloge in lingua, vincitrice il Premio Internazionale di Poesia Agenda dei Poeti Milano 1999. Nel giugno del 2000 esce la raccolta poetica in vernacolo urbano di Treviso, Campane Pardò, ristampata nel 2006, silloge dedicata a momenti della vita di coppia. Nel 2002 fa seguito per i tipi di Piazza Editore a Metera e a Mesente. Nel 2004 Scondicuco, Nascondino. Nel 2008 per le edizioni del Leone ha pubblicato la silloge poetica in lingua Questo resto di giorno. Nel 2010 esce Me pareva appena ieri, Piazza Editore, poesie in vernacolo trevigiano come le precedenti. Silloge che continua un ideale percorso poetico dedicato alla terra trevigiana, alla sua gente e alla sua armoniosa parlata. Ha recensito e presentato opere di altri poeti. Sue poesie in lingua ed in vernacolo sono presenti in varie antologie e riviste letterarie e sono state premiate e segnalate in numerosi concorsi regionali e nazionali. Bene, la parola al dottor Facchinello. Sì, io leggo poesie di Emilio Gallina, che scrive molto spesso in dialetto, però questa è in italiano. Le trago dalla raccolta Questo resto di giorno. C'è un filo conduttore in queste poesie che leggo, che è il tempo che passa, e quindi un po' di nostalgia, e soprattutto quasi, secondo me, la sensazione che l'unica maniera per in qualche maniera rallentare il tempo è scriverne. Scriverne e ricordare, poi ricordare è anche un modo per rivivere il tempo, quindi in qualche maniera per tornare indietro. Comunque leggo da Questo resto di giorno. Tremo le foglie e i rami, molti hanno ceduto a malie del vento. Seduto sul limitare del giorno dimentico l'ora, smarrisco. Ascolto arcani silenzi. Stranito inseguo mute reti di voli, bizzarro incendio di cirri e tardivi voli per l'ultima cena. Da sparse pievi ovattato mi giunge il serotino saluto dell'ave, docile al labbro d'infanzia e una prece. In questo resto di giorno indosso ricordi e speranze, attendo stelle a rischiarare la mia notte, lontani dell'assiolo il verso e il rumore dei giorni. Io ormai conosco la sua memoria. L'ombra. Nel silenzio la notte ha un tonfo sordo e acuto lamento di vetri infranti. Oscuro mistero, alla mente interrogativi più neri. Scatta l'interruttore svelato l'arcano, il quadro staccato dal chiodo e sul pavimento sfatto. Sul muro la sua ombra, il segno del tempo. Tragica. Quanto tempo era che era lì attaccato? Zingara. Porgimi la mano, signore, non temere. tutto leggo di te, passato, presente, futuro, salute, lavoro, gli amori. Non ti offendere, Sibilla di Terre dell'Est. In ognuno grande è il desiderio di conoscere il destino, non voglio sapere. Mi affido a chi, con la C maiuscola, tutto stranito per noi, tutto stabilito per noi. Confido nel suo imprescrutabile disegno, non ti offendere, donna. È bene così. Certe chiuse sono come un piedistallo delle poesie, le innalzano un poco, gli danno senso. Difatti, questa è felice, come altre poi che farò notare. Icona nei pensieri, nel lento incedere a sera si allungano pigre ombre, l'ora quieta dell'ave batte ai ricordi. Spontaneo al labbro un requiem, assorto oltre orizzonti terreni, viva memoria il tuo volto madre, sorridente dell'infinito amore di ogni madre. Nel silenzio avverto flebile eco del saluto tuo, nell'andare discreto del vento. Mi scorre leggero tra i capelli, mi accarezza il viso come tue dolcissime mani. Non di mestizia né rammarico mi è questa ora, ma serena accettazione e speranza. Il tuo volto, viva icona nei miei pensieri, accompagna, madre, questi miei tardi giorni di fiduciosa attesa. Ci incontreremo, ecco un altro piedistallo. Perché è molto importante sto ultimo. La casa degli anni bambini. La casa di via Carlo Alberto è tra le mie mani col variopinto balocco del tempo fanciullo, riemerso dalla scatola scrigno, gelosa custode d'infanzia, obliata nel fondo di un canto. Via Carlo Alberto, civico 77. Della casa che ospitava i miei anni bambini e la voce e il canto di mia madre, giovane e bella, poco o nulla è rimasto. È stata vampa di fuoco una sera di marzo del 1945, non era primavera ancora. Una notte di sirene, di bengala, di bombe e di mortali ferite, a quella certo di città profanata, un venerdì di passione. Ho tra le mani i giorni fanciulli, lo slargo di via Carlo Alberto, l'asilo aborrito, il palazzo del giasso, rio convertite, vaghe sembianze dei compagni di scuola e di giochi, mia madre. In quel dimenticato balocco rivive quel tempo lontano, tutto riemerge dall'album memoria, geloso custode di luoghi e di cose dei giorni sereni d'infanzia. Vado avanti sempre con questo filo bella conduttore. Bella questa, non la conoscevo più di tanto, io l'ho letta ma... Un altro di tua madre, mi era dolce il tuo dire, mi era dolce il tuo dire madre, di te e dei tuoi giorni sofferti, giovane mancata sposa, incolpevole per abbandoni e sofferto andare di vite e di morti al cane. Struggente mi torna nostalgia di giorni trascorsi nel crescermi in età e amore, senza odio e rancore, e delle preghiere tue ripetute nelle sere degli anni bambini, al labbro mi tornano ancora. Non fratelli, non sorelle, non nonni e fiabe da raccontare. Di te solo posso dire, dei nostri giorni insieme e dell'amore per questo figlio difeso da avversa sorte fin dal concepimento. Miede serenità il ricordo del tuo dire e della tua voce, madre. Mi sono compagni nel cammino di giorni che conducono a te. Anche questa è molto bella. Quella notte al trio non la leggo neanche perché è troppo forte. Quale? È l'avviso di una morte, di una... Ecco. Finisco qua. Se c'è tempo leggo qualcosa di dialetto. A meno che non facciate una pausa. Sì, tornatina in dialetto. Beh, dai, intanto finisce questa qui. Leggo una poesia in dialetto allora intanto. Va bene. Da me terra a mezzente. Qua, che se sempre, si può parlare in dialetto perché parliamo delle poesie in dialetto, quindi. Anche per essere in tema. La nostalgia delle cose passate, prima era il tempo che passava, adesso sono le cose che vengono lasciate e rimangono vuote. Un rosario smario de case vode in rovina, in te un silenzio de angoscia. Improvviso e sei tarde una bissa che strisse tra i sassi, indoente. Solo parole de vento passa tra i muri dei casi intristie, strassando sgranciati d'erbe in selva reghie. Un calvario de case sconie che strengersi e par una che altra come spaurie. E par chiamarsi sotto voce pin pian come putei che ha paura de star soi de note, al scuro. Ecco, certi vocaboli dialettali non li conosco, per esempio sciati, non so cosa che voglia dire. Sciato, c'è un da noi non si adopera, per dire che le parole dialettali variano da colmello a colmello, sì, da paese a paese, perché nascono in certe enclave, sì, e nascono da, e sono in, alcune sono enclave incomunicabili, sono, poi tra l'una e le altre. Sentivo da mia madre, no? Ecco. Però Emilio, tu sai che io sono la tua fan. E mi piace tanto la poesia tua in italiano, però mi piacciono tantissimo quelle in dialetto. Hanno un fascino le tue poesie in dialetto che... Ma tu non ci credi, ma delle volte proprio veramente, se così mi viene in mente, mi vengono sempre in mente queste poesie, specialmente quelle in dialetto. Se posso interloquire, quelle in dialetto danno l'idea di un mondo che è passato, almeno sembra passato e trapassato, ma la mia impressione è che in queste poesie e anche in altre, come dire, analoghi tentativi, stia per ritornare una volta che saremo completamente rinsaviti dal consumismo. Non so se voi siete d'accordo. Beh, io penso che sarà difficile. Uno una volta che i cicli della storia... Può darsi che ritorni, Non lo so, sentendo i giovani, no? Però non ci a mettersi mano sui capelli, non ci sono perché segni del momento. Del passato, i corsi, con perde fanai così, detto un paio d'occhi così sgranati, ma cosa mi conti, o fao, sarebbero tanti aneddoti da dire per... Comunque, grazie. Può darsi che tornino questi tempi, ma chissà quando. Non ci sono segni per il momento. No. Ecco, siamo appunto, noi custodi di un appunto, mondo passato. Appunto, e di valori che dovrebbero essere perenni, e però sono in parte dimenticati anche quelli. Cioè, sì. Saranno, come dire, risuscitati, riemergeranno, però con altro spirito. Con altro spirito, altre, in altri modi. Bene, allora ci fermiamo per un'altra canzone, questa volta... la volta scorsa non ho fatto in tempo, ma anche Antonio ha compiuto gli anni la settimana scorsa. Certo. E allora so che lui... Ringrazio sentitamente, non era il caso di citare. Ma scusa, per vecchiaia? Assolutamente, sono in fase di regressione non anagrafica. Non ho detto quanti anni hai, né che classe sei, quindi ecco. Ma so che ti piacciono le canzoni americane anni 50, ed io ho pensato di dedicartene una. La posso citare? È cantata da Elvis Presley. Something Blue. Ecco, allora ci ascoltiamo. Something old, the time's gone by. Something new, these tears I cry. Something borrowed were those lips my lips knew, and that's why something blue, something old, the vows we made, something new, the price I paid. Something borrowed, love was tried, but not true. Now my life is something blue. I guess that I had better smile, walking behind you down the aisle. I feel I'm walking to my doom. I'm really not the best man in this room. Something old, the dreams we planned. Something new, his wedding band. Something borrowed was the heart I gave you. dreams we planned. Something new. His wedding band. Something borrowed was the part I gave you. You returned it torn in two. And that's why. And that's why I'm something new. Oh, questa volta chi comincia a leggere? Riprendo io e questa volta dalla silloge al mio paese. Effettivamente, sì. Se Antonio accennava a mettere a mesente di riandare alla riscoperta delle cose passate, qua credo che sia proprio tutto un riandare al passato, sì. Ma in senso positivo. D'altro canto, fermare il vissuto è molto importante. E come dicevo nella presentazione, come Italo ha parlato del suo paese, è una cosa straordinaria, perché ha cantato tutto, come si diceva, insomma. Vabbè, al mio paese. Al mio paese il popolo non c'era, quello col mensile, e più si viveva di stenti e tanti di carità. Da male, chi aveva si mangiava tutto, e solo dopo, nei casi gravi, di ospedale, subentrava l'elenco dei poveri. I ricchi lavoravano un poco de terra, capitalisti non ce n'era, o forse uno che in casa aveva poltrone e la radio. Anche questo è un bellissimo ricordo, sì, bello, la strada del pane. Anche proprio una bella immagine, sì. La strada del pane, questo mi pare, se qual è, mi pare senti il profumo del pane. Il profumo del pane, sì. La strada del pane. Restano pochi a ricordare l'urlo della trebbia che inghiottiva le faie, ecco il dialettale, lanciate dalla mea nella calura di luglio. Le terpide mani e le bocchette, gli uomini nella polvere di paglia e paioe, le bocche bendate agli spigassi. Pochi ricordano ancora i canti delle donne scartoccianti nelle notti d'autunno, le voci sferzanti dei contadini aranti, grondare con zappa e falcino, l'ansioso scrutare il cammino dei temporali, i tridui, la fulgore tempestate di prima mattina nella guazza del crearo, l'amaro odor di frandina tempesta fino a Eval. Sì. Il Tedeum del 31 dicembre per essere vivi. Restano pochi a ricordare la lunga strada del pane quando c'era. In questa sintesi c'è una roba straordinaria. Bisogna fare una lunga spiegazione. Non ho capito sì. certe parole. Io faglie, cioè, le faglie, sono fasce di spighe. Ah, fasce di spighe. No. Poi un'altra parola ancora sulle paioie. Sono le pule del grano. La pula del grano. Ho capito. Sì. Bella anche questa. No, è veramente. Le trepide mani alle bocchette, perché i contadini andavano sotto dove usciva il frumento. A sentire quanto uscivo, come buttava, com'era l'esito della trebbiatura. Sì, con tutte cose scomparse. Era trepide mani perché era il segno del raccolto. Adesso la macchina va nel campo e fa tutto da sola. Una volta era un avvenimento. Ecco, un'altra cosa che è straordinaria per me, questa è la Crosara dei Ladri, sì? Che è stupenda. Guarda. La Crosara dei Ladri aveva quattro strade. La prima portava la luce dell'alba e il canto. La seconda si perdeva nelle opere dei runchi. La terza seguiva il sole al tramonto, di là del Brenton nel mistero. La quarta strada portava la chiesa e di notte fino al lumino del grappa. Era la strada dei sogni e di Dio. Le quattro strade della Crosara dei Ladri erano allora per me il crocevia del mondo. Certo che sono. Io sono innamorato di queste poesie perché sì. mi ritrovo tantissimo, pur non avendo vissuto a Loria, ma sono certe immagini mi ritornano per altri motivi. Però il dialetto è tanto diverso, perché ci sono certe parole. Sì. Non riesco a capire. Al mio paese. Al mio paese. Si camminava a piedi scalzi sulle sgarbe, che sono, cosa la, sono? La, la, tronconi, la, tronconi di dopo tagliato del frumento, frumento la spagna, ho capito, o la, sì, la leva, sì, medica, scattò, sì, ecco. No, i gambetti, sì, sì, sì. E qua mi ricordo quando ero sfollato postioma che camminavo, sì, invidiavo i ragazzini che camminavano scalzi. In Italia con quelle, c'è pericolo di tetano. Certo. Oh, addirittura. Sì. Al mio paese si camminava a piedi scalzi sulle sgarbe, ma alle porte della chiesa si stava tutti insieme e dentro con l'Altissimo. Al mio paese il pane si teneva per dolce alla fine dei pasti, di polenta e qualcosa, ma ognuno aveva il suo cielo sopra i campi e le siepi intorno a casa. Per il sole i temporali, la sua luna e le stelle, contate e ricontate, vaganti come i pensieri. Al mio paese silente, rari parlari vicino ai muri, caldi di sera in estate, richiami di uomini e di madri, e suono di campane. Il mondo finiva al colmello, ma ognuno aveva il suo posto a un passo dall'infinito. Chi è stato in questa terra, dove parlano ancora le voci di padri, non può che tornare camminando o col pensiero. Infatti una cosa straordinaria, perché effettivamente è una, ecco, cosa... Io vorrei chiedere la spiegazione di un verso un pochino prima della fine. Cioè il suono delle campane... Madonna santa. Soli temporali? No, prima, il penultimo o il terzo ultimo verso qual è? Dunque, il suono delle campane, il mondo finiva, ecco, al colmello. Bravo. Sì. Il mondo finiva al colmello. Perché praticamente... E dopo cosa c'è, scusa? Ma ognuno aveva il suo posto a un passo dall'infinito. Eccola, questa qua. E la do la parola a Italo. Il mondo finiva al colmello, ma ognuno aveva fede e quindi aveva il suo posto nell'altissimo. Ho capito. Nell'infinito. Sì, sì, sì. No, avevo capito perché giusto. Perché c'era la fede? Sì, sì, avevo capito giusto. Allora, questa piccola eternità. Ah, sì. Piccola eternità. E questo dovrei commentarla, ma adesso la leggiamo così. A volte i commenti non servono perché è pregna di significato di se stessa. Ma questa la conosco perché ce l'ho anch'io. È una memoria strepitosa, sì, signore. Dopo che il vento avrà spento volti, parole alla luce del sole, qualcosa di me resterà. Un muro, una casa finché reggerà, un nome accennato ogni tanto, l'eco di un canto in contrada, una strada infossata tra siepi e alberi tronchi, là, la terra del corno e dei ronchi, quell'arco di cielo a orizzonte che cala sul monte nell'aria sospesa, voce di chiesa, un suono di campana nell'ora che avanza, la fede dei padri, speranza. Resterà degli amori, di attese, la piccola eternità di paese. Sì, perché so che l'ho letta e so che mi ha colpito molto questa poesia. Ecco, tra le altre mi ricordo molto questa, molto bella. E poi c'è un'altra che me la ricordo, adesso non mi ricordo i titoli, ma mi pare che fosse che parlasse di novembre. Mi pare che parlasse di novembre. Andiamo avanti, facciamo una pausa. C'è tempo? 41. Leggi un'altra. Mia mamma, perché c'è un'altra cosa legata in questo, nella raccolta, una cosa particolare legata a tua mamma. Sì, che è stata... come c'è nelle tue. Sì, anche. Ma mia forse in più, purtroppo, in chiave più dolorosa. Più dolorosa, tu sei qua gioiosa, effettivamente. Pur nella sofferenza, perché hai sofferto parecchio come ha sofferto lei. Certo. E quindi... È straordinaria questa, pensa. Mia mamma. Mia mamma non somiglia alla Madonna Celestina del mio paese, pallida e ferma, nella nicchia d'altare. Mia mamma è la terra di tutte le messi, il trionfo dei fiori di ogni stagione, il sole che brilla e ancora di più. Mia mamma somiglia alla Madonna vera ed è con lei nell'eterno. Stupenda. Bella, bella. Ecco, anche questa me la ricordavo, sì. Beh, allora adesso ci fermiamo un attimo per un'altra canzone, ed è cantata da Luca Barbarossa, invece no. E poi leggiamo un po' di scritto. Potevo crescere vita bene organizzata. Potevo avere una donna sola e non farla soffrire mai. Non dire sempre quello che penso e non mettermi nei guai. Potevo vivere a due passi dalla città, casa e giardino, e la sera ritornare là. Avere il senso degli affari ed il cinismo di chi ce l'ha. Comprare a poco per poi rivendere al doppio della metà. E invece no, e invece no, sempre dietro alle mie passioni. E invece no, e invece no, entusiasmi e delusioni. Tra i sogni e le certezze ho scelto sempre la libertà. Sento di amarti ma non so dirti ancora. Domani che sarà, domani che sarà. Potevo essere uno di quelli che rischia mai e non si espongono a sconfitte e precarietà. Potevo avere una direzione per poi non cambiarla più e non trovarmi a ricominciare tutto ogni volta che cado giù. E invece no, e invece no, sempre dietro alle mie passioni. Invece no, e invece no, entusiasmi e delusioni. Tra i sogni e le certezze ho scelto sempre la libertà. Sento di amarti ma non so dirti ancora. Domani che sarà? Scelto sempre la libertà. Sento di amarti ma non so dirti ancora. Domani che sarà, domani che sarà, domani che sarà. Cosa sarà domani? Bellissimo. Bella sta frase intima, così, che ha cantato il nostro Luca Barbarossa. Allora, chi legge adesso? Leggo io? Sì. Da Condicuco. Oh, bella. Che da noi si chiama Battarin. Battarini. Sì, perché batte sul muro. Pensa che fosse il pito. Intanto mi sono dimenticato prima di ringraziare il signor Lusinghiero, spero meritato un poco almeno la presentazione che mi ha fatto, molto commossa, molto sentita e scritta bene. Leggo da Scondicuco un quadretto familiare molto, molto bello, molto simpatico, giocato tra ironia e affettuosità. Molto bello. Coi tosati te tira a cimento, capita ogni tanto che te scampe una parolaccia di quei grosse. Un strisso, fa una saetta secca, che non par neanche a dito da ti. In casa, per un momento, tutto si ferma di colpo, scaturio. Te guardo e mi sbrisa da ridere. Te mi guardi e te viene da ridere anche a ti. Po' te tontoni a voce alta per farti sentire dei tosati. Te discorriti, ma qui ti tira a cimento e poi ti continui. Qua che vola, che vola, oh! E ridendo ti torni serena a tambarare per casa. Guarda, una istantanea meravigliosa. Molto bella, sì. Molto bella. Dopo voglio leggere, prima di andare avanti con Scondicuco, una che mi piace moltissimo, che è una, il ritratto di una toseta. Qua dei cavalli. Cuore dei cavalli, da mettere a mesente, che è essenziale. Sì. E che con due parole se tratteggia non solo l'aspetto fisico, ma anche l'interiorità di sta putea. Non so chi che te sì, nel tuo nome conosco, te go chiamar così, pari tuoi cavalli d'oro, ciapai a cuo de cavalli, linda figura di toseta, i libri sotto il braccio, e il camminare un fiasproto e provocante. Mi son fermato incantato a guardare e sciantisar dei toci neti, il tuo musito acqua e son, e il tuo essere tra poco donna che chi ha camisetta furba sa immaginare. Te ho visto scantonar contenta senza pensieri, un fia sprota, assando di drio profumo de neto e di allegria. Cuo de caval, scantiso de primavera, e de anni in fior. Chi sarà tu? Come te chiamarà tu? Gioventù? Bella. È molto bella. Bella, sì. Molto bella. Molto, molto bella. Vista con occhi puliti, sì, una torretta sì, pulita. Sì, sì. Era pulita, sì. Vista da un nono, molto bella. E anche un acuto osservatore. Sì. Fermate e guarda, questi qua sono flash di vita. Ti che te vivi depressa, barattando a vita, per un po' di skate. Gatto mai fermare un momento, uno solo, a guardare a cosa a corsa svelta della lancetta grande del reoio. Gatto mai scontare che il tic-tic guaivo che te magna senza rimedio a vita, secondo, drio, secondo. Te si tu mai fermare a guardare la natura viva sottorno di ti, nel girar dei mesi e dei stagioni. Questo gran meraviglie, finché ti ha tempo, fermate, guarda e ascolta pa vivere to di da uomo. Comunque questa poesia è molto da riflettere. Sì, dice, anche questa qua di Emmaus è molto bella. Dice, se un dì mi trovassi, ecco qua che c'è uno con lettera maiuscola e lui con lettera maiuscola, perché si riferisce al Padre Eterno. Ah. Se un dì trovassi dri una strada, straco, sfiducia, senza più credere in niente, in nessun, speraria incontrare uno che camminasse con me, facendomi compagnia. Uno che nell'andar del e me parlasse di tante robe che no gocciare e me angoscia. Uno che mi versesse gli occhi parlandomi di me, di lui, sul dopo dei dì, così che potesse tornare in drio col cuore in sussurro. Come che i do de Emmaus a credere ancora par vivere una fede nuova? Perché se tutti i dubbi esistenziali, sì, d'Emilio. Bello. Che se un po' di tutti. Beh, penso proprio di sì. Proprio ti ricordi sì. Tu, mamma, che sere lunghe di freddo inverno, dove venivo in letto con te, ti me tenevi stretto, stretto, per scaldarmi un poco, e prima che già passe sonno, te mi facevi ripetere orazioni che ancora ricordo. Poco o niente capia di tutte quei parole che sottovoce ti andavi dicendo e che pien di soggezione ripetio come un pappagallo. Pian pian, stretto a te, come un fagotel ciappavo sono, contento solo di essere tra i tuoi bracci. Molto affettuosa, molto bello ricordo. Comunque la sensibilità dell'animo di Emilio. Chi gli dirà a tua mamma? Questa qua è troppo triste, non voglio neanche, non voglio neanche leggere. È l'annuncio della morte della putea. Tantosato. Storia finia. 23 dicembre 1989, via Bianchin 5. Cocavata Arghita col tuo nome, dalla porta di Aito Casa. Voda di ti e di tutto, adesso, mamma. E mamma tremava. Al girare a pian del cassavide e ogni giro si stuava dentro ricordi, patindo di ti. Con l'ultimo giro de chiave, a tua casa seravo par sempre, e par sempre finiva una storia e una vita, a tua mamma e gran parte della mia. E questo qua, a proposito dei piedistalli, sto gran parte ecco, della mia, che dà risalto a tutta sì, la poesia sì, in maniera effettivamente stupenda. Effettivamente sì, perché... è inutile una parte di noi va via. Posso leggere un'altra se vuoi? Sì, sì. Castel dei Ronchi. De Castel non gli aveva proprio niente sto colmel a Postioma. Un graspo de case malfatto, sconto tra il verde de siese e de campi. Da cara feltrina da una stradea che si perdea a destra e a sanca lontan, a levante. Un colmel di case vecchie in candie col muscio sui copi e in te crepe dei muri di sasso. Un luogo dove suor e fatica in quei anni consava magri di snar che a pase de di pur duri de guerra faceva de sto borgo un fia foraman, un posto quieto de smentegà. Un luogo dove sfolato ho conosciuto il lavoro dei campi, l'agro odor della fatica. Il profumo del pan fatto in casa, spusa de stalla e fiò, gli amici piccari di tutte età, gente buona, umile e vera, che ho rivisto sempre volentiera, adesso del castello. di quel graspo de case, mai fatto ma chieto, mi si resta solo dovecci, il moro e appina a sua femmina. E case dei Beppa e dei Gota, ancora col muscio sui copi inte e crepe dei muri de sasso, tanti ricordi, un magon, pi niente. Questa è la nostalgia del mondo. Che adesso è sparito tuttora. Che si è raffigurata queste case abbandonate. È sparito tutto. Sì, e quante cose che si è sparito, ma dopo. Bella posso, anche questa. Posso, sì? Prima di chiudere, sì, ecco, sì. Ce n'erano, c'era questa, sempre dedicata al ricordo della mamma, no? Sì. Pasqua Maria. Pasqua Maria, si chiamava proprio Pasqua Maria. Maria Pasqua. La mamma? Sì, sì, si chiamava Pasqua, secondo nome. Maria. Pare impossibile non si mette se non è Pasqua a Natuzzi. Pasquina. Maria Pasqua, senti sì, no, sì, no, Pasqua, Pasquina. Tonio. La gioia aveva il tuo volto, mamma. Il respiro con te era, era piena di vera la terra. Domando scusa. Riprendo. La gioia aveva il tuo volto, mamma. Il respiro con te era piena di vero la terra dove passavi. Con te il sentimento riempiva le povere stanze, il cortile, di attesa la vita riempiva. La voce tua calda che i giorni distenti cambiava nel gusto di stare tra noi e sperare, che al primo spuntare dell'alba le ore seguiva, gli eventi avvolgendo, la voce preghiera al partire del padre che a sera sereno tornasse. Nessuna voce ascoltata al mondo nei giorni sepolti, così nel profondo ha solcato anima e mente. Posso farne un'altra? Sì, sì. Tocca un po', po'. Sì. Lettera alla mamma. E qui è tutto, sarebbe tutto un discorso da fare. Ma come... spieghiamola un po', si può spiegare. Non è praticamente... Perché una volta c'era una casa che non aveva nessun conforto, adesso invece ce l'ha, quindi scrivo a mia mamma, guarda che adesso è tutto a posto. Ah, sì, l'ho letta sì. Quella poesia, sì, sì, mi ricordo. Lettera alla mamma. Come saprai, la casa è finita. È come la prima che abbiamo sognato per anni, la casa in via Balbi, coi verdi balconi, le rose attorno al cortile, dove eri sposa novella e io sono nato, che un triste destino di notte ci aveva rubato, buttandoci in mezzo alla strada, col carro di cenci. Finché un Dio provvidente un'altra ti diede, sia pure cadente, che tu franco a franco postavi. Ma presto partisti, che l'opera era appena iniziata. Adesso è finita, vedessi. Non serve andare alla fonte, c'è l'acqua corrente. C'è un quieto tepore d'inverno e luce per tutte le stanze che a notte si vede un ago per terra. Al posto del bagno di canne ce n'è uno di rosa ed azzurro con l'acqua, volendo anche calda. E il campo pare un giardino. Ho fatto perfino il camino e c'è legna bizzeffe che brucia per sport. Per vedere le fiamme. Aspetto che a un'ora di notte o quando non passa nessuno tu possa tornare e guardare almeno un poco come una volta dal portico vicino al soco. Bellissima, bella, è commovente. Sì, molto sì. Bella questa. È perché c'è tutta una storia dritto dietro, cioè sì. Sì, quando sono nato io avevamo una casa che poi ci hanno tolto, ci hanno sfrattato e mia mamma ha sofferto moltissimo, si è stati in affitto presso altri figli e abbiamo riavuto una casa vecchia, malandata, che abbiamo cominciato a mettere a posto e quindi quando sul più bello che stavamo mettendo a posto mia mamma se n'è andata a povera, quindi io scrivo una lettera dicendo guarda che questa casa nuova è finita e sì, mi sì, è a posto. Ma è molto bella, come molto, tu saprai posso leggere qualcuna sì? Da a mettere a mesente sì. Vecchia casa bianca, così siamo in tema. Vecchia tema di casa bianca, vecchia bella. Casa bianca, casa contadina col portico grande, a corte, a pergola, a chiesa, a stala. E la Madonetta pitturata in un bel compostiso, dove sei tu? Vecchia casa contadina, saor de latte e de soghi, de di senza pensieri, profumo de pan fresco, de fen, de vin novo e fiò, stravacata in tel brolo tra fruteri, vide norbie e campi d'America e soturco, ciassosa per cantar svegliarinde e bestie in te a corte e a stala imbriaga l'istade fadie e suor, dove sei tu? Dove sei adesso il tuo brolo e vide impreste, atosente e toraise, chi ha bastardato semensa da far buttar dalla totera mora, fa gramegna maledetta palassoni? Desmentegà, solo una muer cargo de fiori fa ombria staverta. A una giostrina parputei in te cortil dell'asio novo. E questa è bella. E mi pare che qui abbiamo fatto decisamente un qualcosa di innovativo questa sera, con una doppia, come dire, un doppio filone che poi si conflue, è un po' come il Sil e il Cagnan. Il Cagnan si accompagna, certo. Mi dà questa impressione, che costruiscono, confluiscono praticamente nel dare un unico fiume di sentimenti. Non so se voi siete d'accordo. Sì, sì, d'accordissimo, sì. Bene, allora tu dici che è quasi ora. Diciamo che mancano una manciata di secondi. Se posso, sì, certo, un breve naturalmente. Allora, ringrazio per gli auguri che mi avete fatto, che accetto per altri 100 anni. Pensa quante altre volte si vedono. Ringrazio. Non è una promessa, è una minaccia. Sì. Ringrazio Italo per essere stato qua con noi. Altri, io scrivo poesie in genere, scrivo più in prosa. Sì, infatti è molto importante la sua prosa. La prossima, prossima volta faremo prosa. Vuoi dire qualcosa di Masaccio, veloce? O siamo Masaccio, sì, è una fortuna che ho avuto, dicono, di avere gli scritti di Masaccio, bambino e ragazzo e giovane, e che non aveva nessuno, io l'ho pubblicato commentandoli. Perfetto. Famoso, mi dispiace, ma purtroppo. Il famoso comandante partigiano. Esatto. Siamo, vabbè, allora ringraziamo i nostri due ospiti. Un saluto a tutti. E a domenica prossima. Avete ascoltato? Storie de Noaltri, tradizioni, cultura e curiosità dalle nostre terre. Questo programma lo puoi riascoltare su bluradioveneto.it.